Dog, la realtà condivisa di Gianluca Nicoletti. Che cos'è un gadget? Copricapi animali per gatti. Rosario elettronico da tavolo, prega con me. Apri bottiglie, spada laser, Star Wars con suono. Sveglia che corre. Un gadget è un oggetto che possiamo prendere tra le mani e che ci dà capacità che prima non avevamo. È un oggetto meccanico o elettronico, un oggetto personale con il quale ci si rapporta. I gadget oggi ci definiscono. I gadget rendono la vita migliore. Mi scrive un ascoltatore che ha capito immediatamente il senso di questa trasmissione del venerdì, assolato e primaverile, quindi senza pensieri. La nostra vita si basa sul superfluo, ma senza superfluo non potremmo vivere. Saremmo tutti disoccupati, io e lei per primi, verissimo. Se non ci fosse il desiderio vitale e viscerale del superfluo, nessuno ascolterebbe la radio e noi non vivremmo, ad esempio. Ma ci sono un'infinità di altre situazioni in cui il superfluo comunque ci riempie la vita. Oggi voglio fare una trasmissione rilassata. Ho osservato ieri, nell'intimo recesso dove passo la maggior parte del mio tempo, le cose inutili che ci stanno. Potrei riempirne una carriola e buttarle via, e vivrei lo stesso naturalmente. Non mi serve l'omettino finta sagoma di ucciso con un buco per infilarci una matita sopra, che ci faccio? Niente. Non mi serve la statuetta del frate di Assise che pigi la testa e esci fuori il pisello, non ci faccio niente, però ce l'ho lì, ce l'ho da anni, non ne posso fare a meno. Non mi serve il portapenne portacellulare a forma di vagine dentate che mi ha regalato un'altra amica, non mi serve, però ce l'ho lì e lo uso. Siamo circondati da oggetti che ci regalano, che acquistiamo. Un'altra amica mi ha regalato un profumatore a forma di teschio, favoloso, fantastico, c'è anche gli strass sopra, ma non è che uno vive se non ha quello, vive lo stesso benissimo, non è che crea un problema. Eppure gran parte della nostra giornata la passiamo, ecco è arrivato il primo tweet per dimostrarmi quale sarà l'oggetto inutile dell'ascoltatore che mi ha scritto, passiamo la giornata in realtà in alcuni momenti che ci compensano degli stress, delle angustie, delle angosce di cui abbiamo ampiamente parlato i primi quattro giorni di questa settimana, stravaccando la nostra mente, i nostri pensieri, i nostri desideri attraverso delle fantastiche esposizioni di inutili gadget. Io quando voglio rilassarmi, soprattutto lunedì, uscendo dalla metropolitana di Piazza della Repubblica, invece che passare dalla parte della stazione, quindi omaggiare l'orrenda statua del Papa, che anche quello comunque è un gadget di un sindaco, ma è una cosa inutile, sta lì, a qualcosa servirà probabilmente, a rendere felice chi l'ha fatto, a rendere felice chi l'ha inaugurato. Beh, faccio l'altro giro, passo davanti alla premiata antica farmacia delle sorelle Barletta e mi infilo in un mercatino che c'è la mattina, che è il regno del gadget. Questa mattina non so come ho fatto a resistere a acquistare l'ennesimo attrezzo multiuso di cui non faccio niente, che c'era il martello, la sega, il cacciavite, addirittura anche una piccola pila, meraviglioso, che ci faccio? Nulla, però lo volevo, mi avrebbe riempito di gioia la giornata, quindi faccio questa trasmissione. Se qualcuno di voi questa mattina ha voglia con me di fare questo grande coming out, questa grande confessione, mi dice gli oggetti inutili, gli oggetti inutili regalati, acquistati, in qualche maniera ottenuti, di cui si circonda, che in fondo rappresentano la gioia del futile, quando uno riesce a impegnare delle sue risorse in qualcosa di futile, qualcosa che non serva solamente a nulla, qualcosa paradossalmente inutile, beh, è un momento di grande, incommensurabile felicità. 800 24 0024. Sapone in sacca di sangue. Uccidere i germi non è mai stato così divertente. Infatti da oggi potrai utilizzare questa sacca da trasfusione che sembra contenere sangue denso, invece contiene sapone al profumo di ciliegia. Dai al tuo bagno un tocco di adrenalina con questo bagno schiuma profumato alla ciliegia contenuto in una sacca di sangue da trasfusioni. Ditemi dove posso acquistarlo, ditemi dove si trova, ditemi dove posso riempire la tetra teatralità del mio bagno con questa che è tutto nero e grigio, funereo, con questa sacca di sangue che in realtà se c'erne sapone alla ciliegia. Rossano, buongiorno. Buongiorno, signor Nicoletti. Quello che volevo dire io è semplicemente questo, che è vero, noi siamo pieni di oggetti inutili. E mi dica i suoi però, mi dica i suoi. No, no, io volevo dire solo questo, che comunque servono anche loro, perché mettono in circolazione un po' di moneta, fa lavorare la gente, quindi è giusto che ci siano, secondo il mio punto. Questo, diciamo, è un lato trascurabile, questa mattina ci interessa poco quanto il volano dell'economia sia messo in moto dalla futilità scellerata degli oggetti che abbiamo elencato. È vero però, la sacca di sangue che se cerne sapone alla ciliegia comunque fra lavorare dei produttori di sacche, che probabilmente saranno dei cinesi che lavoreranno per fame, dei produttori di sapone alla ciliegia, che nulla a che fare con le ciliegie, ma saranno dei chimici cinesi che fabbricheranno una sorta di corroborante acido al sapone che naturalmente crea delle scoriazioni su chi lo usa, ma insieme l'oggetto, l'unione di queste scelleratezze, che se vogliamo considerarle da un punto di vista di equità economica, naturalmente ci fanno inorridire, ma che in realtà ci danno la felicità. Solo desiderare un oggetto inutile, un oggetto folle, ci dà un momento di ilare sregolatezza. Quando si è sregolati vuol dire che si è felici, se qualcosa ci fa felice perché vogliamo censurarcelo? Però mi deve dire adesso, visto che ha chiamato e ha fatto questa interessante intervento, quali sono gli oggetti inutili di cui lei si circonda, di cui potrebbe fare a meno, ma non fa meno perché rappresentano la parte fondamentale della sua felicità, l'asse portante su cui il suo equilibrio è organizzato ogni giorno. Per me sono ad esempio dei raccoglitori dove ad esempio metto viti su viti che alla fine li accumulo solo in cantina e poi alla fine scatolette per viti esattamente, scatolette per viti, però bene o male sono felice lo stesso, perché comunque dal momento in cui tu vai a comprare questo genere di oggetti è vero che sono inutili, però al di là di questo chi te lo vende comunque ci lavora, chi comunque l'ha prodotto ci lavora, è un giro che è giusto che ci sia, ecco. E sono felice di comprarlo. Adesso non mi ricordo quale dei miei ospiti, penso fosse un amico mio, mi raccontò del nonno che teneva nella cantina uno scatolone pieno di lampadine fulminate, con scritto sopra non funzionano, poi le teneva perché chissà un domani la scienza forse poteva rigenerarle. Ma non vogliamo parlare di cose utili, non vogliamo parlare della micragna dell'accumulo, vogliamo parlare della dissolutezza dell'oggettistica inutile. Rosario elettronico da tavolo, prega con me. Bellissimo rosario da tavolo con effigie in cristallo della Madonna. È possibile ascoltare il rosario con litanie, oppure le preghiere del mattino e della sera, seguite dall'Ave Maria di Schubert. Questo affare qui, questo mezzo qui, è la recita del Santo Rosario elettronico a batterie. Certo che uno bisogna che si tiene la corona del rosario in telemà mentre lo recita, no? Schiaccio. Senti, la voce è di un sacerdote e di una monica dell'Ureto, una suora. Suor Barbara, c'ha una voce bellissima quella suora. La preghiera del rosario presso il santuario della Santa Casa di Loreto. Avvenga di me quello che hai detto. Ecco, adesso io schiaccio qui. Venerdì, sabato e domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, c'è tutti i misteri di ogni giorno della settimana. Per chi è che non sa recitarlo, chi impara, capito? Sa, questo impara, questo è un mezzo per imparare. Di questo particolare gadget mistico ho messo anche la televendita presa da YouTube, il signor che lo vende ne spiega le meraviglie. Voi direte, sei blasfemo? No, assolutamente. In questo caso è doppia felicità. La persona di fede ha la felicità del gadget ridondante, è barocco, è l'esornazione in sé. A che serve tutta questa cosa qui? Basterebbe una coroncina, basterebbe quegli anelletti che portano i Boy Scout per dire rosario, basterebbe disegnarlo su un muro e toccarlo col dito. L'essenzialità dell'oggetto per la preghiera permette che chiunque, in qualunque condizione, in prigionia, in guerra, in mezzo a una foresta, naufrago, nel mare procelloso, possa dire il rosario. No. In questo caso la stessa felicità che noi otteniamo nel comprare gli inutili oggetti che ho all'inizio elencato, la persona di fede l'ha avere questa sorta di mini santuario tascabile in cui ci sono i misteri giorno per giorno, ci sono le campane, la voce del prete, le voci delle suore. Trovo che sia una cosa fantastica. Deborah, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, grazie per la linea. Io chiamo perché secondo me un oggetto che nasce come utile ma è diventato perlomeno per noi donne un vezzo e quindi in qualche modo inutile sono le scarpe. Allora, a parte quelle. Lei camminerebbe scalza? No, io possiedo oltre 160 paia di scarpe. Secondo lei sono tutte utili? Secondo me no. Ma come no? Sono fantastiche. Pensa, avrà un armadietto fantastico. Quando invita un amante a casa, gli apre la porta con luci soffuse e profumate essenze orientali, gli fa vedere tutte le sue scarpe e dici: quale vuoi che mi metta? Cose del genere. È un improperio, però lei conviene con me, perché oltre a quelle che servono normalmente, una volta non, le donne non avevano così tante scarpe. Premessa, io non sono ricca, ho dilapidato i miei magri guadagni. In scarpe, ha fatto bene, come vuole spenderli? La ringrazio, però lo trovo fantastico. Lei, e che vuole comprare? I lingotti d'oro e metterli nascosti per quando sarà vecchia? Almeno avrà vissuto un'età felice con le sue scarpe, degna di passione e pregna di incontri, ma se no non lo so, almeno avrà qualcosa da raccontare, immagino. Di sicuro, poi creda, ho delle scarpe che non ho mai messo, ma che ritiro fuori dalla scarpiera e guardo con una gioia quasi senza pari. Ha investito il suo capitale in scarpe, l'aveva fatto anche la moglie del dittatore Marcos, aveva migliaia di scarpe, quindi evidentemente c'è un nesso fra la scarpa e il potere. Comunque oggi parliamo di gadget, non è proprio un gadget una scarpa, è un accessorio di vestiario, a meno che lei non acquisti le scarpe paradossali e fantastiche, ma comprerà delle scarpe belle, di firma, di marca e di lusso. Santino. Buongiorno Gianluca. Che ha comprato lei? Io una volta, Gianluca, non c'avevo niente che fare, un sabato pomeriggio sono andato in una ferramenta, ma così, giusto per comprare qualcosa, ho comprato un piede di porco. Santino, posso dire una cosa? Non ci crederà, penserà che mi sono messo d'accordo. Questa mattina tra le bancarelle degli indiani e dei cinesi c'era una specie di ferramenta a vendere i piedi di porco fantastici. Non l'ho comprato solo perché non mi facevano entrare qui alla radio, ma ce n'erano di bellissimi, come quelli di Topolino che usa macchia nera e la banda Bassotti. Ma io ho comprato, ma era di quello lungo, hai visto quelli che erano? Lì c'erano di varie misure, c'era dai 50 a 1,20 m. Era 1,5 m. 1,20 m, l'ho già chiesto. Ma proprio per comprare sta cosa, no? È bellissimo. Uno sembra, mi guardavano pure blu, che poi non ci ho fatto niente. Sembra che. Però se può sempre servire un piede di porco, uno se ne è in macchina. Ma io poi faccio il cazzolaio con Gianluca, faccio, capito? Che mi serve? Sempre un piede è, fa le scarpe a piede di porco. Ah, certo. Va bene, ti ringrazio. Ma bellissima idea, grazie Santino. Stefano. Ciao Gianluca. Grazie della chiamata. Grazie a te che mi dai tempo, mi dai modo di guadagnare il mio pane riempendo questi 45 minuti. I miei amici mi chiamano l'uomo dei gadget, cioè io sono uno che impazzisce per quelle cose. Ecco, io cercavo una persona come te, il maniaco dei gadget, comincia l'incarno. Esatto, guarda, ne ho, io ho scritto nell'SMS, vabbè, il cavatappio a forma di pene, ne ho due. Cosa il? Uno, il cavatappio a forma di pene. Ah sì, due. Il pisello uno, stappatore, esatto. È la sua funzione. Lo stappatore poi ne ha uno che è degli anni tipo 50, che sono uomo donna di legno, che si incastrano, uno toglie il turacciolo, l'altro stappa il tappo a ghiera. Però diciamo, nei momenti di riposo stanno incastrati in un amplesso amoroso. Dove l'hai comprate queste cose? Allora, l'amplesso amoroso l'ho ricevuto in eredità da mio padre. Perché non ne fanno più, è roba degli anni 50. Esatto, no, è vecchio, vecchissimo. Mentre l'altro l'ho comprato in uno dei posti dove cerco anch'io di farmi violenza a non entrare, che sono i posti dove vendono le targhe della sorra di Gina. Quelli sono fantastici. Esatto. E ho le cose, diciamo, vabbè, io sono un partito di musica, ho un sacco di gadget musicali. Ad esempio? E poi ho le statuine dei Rolling Stone, quelle piccole action figure, adesivi, gadget, pareti di Bob Dylan e tutte queste cose. Però sai cosa ho visto? Cosa ho visto che ho desiderato molto? Non so come si chiama adesso, mi sfugge il termine tecnico. Quegli attrezzetti di plastica che si mettono dentro il freezer per fare il ghiaccio, porta cubetti di ghiaccio. Ce l'ho a forma di palombaro io. Ho visto quello che fa le stalattiti, non so cosa servono, stalattiti di ghiaccio, però sono bellissimi, uno serve sempre un momento. Comunque, uno di affocamento usa la stalattite di ghiaccio. Dico solo una delle cose a cui sono più legato, che ho preso per i miei figli quando sono andato l'ultima volta negli Stati Uniti, è praticamente un gioco magnetico di Obama che lo puoi vestire come vuoi, cioè con le mutande. Ah, Obama Big Jim, una cosa del genere? No, è magnetico, sono calamite, diciamo, è 2D, non una statuina. Ma sotto è tutto nudo? Sì, no. Ha sempre una mutanda finta disegnata, come i pupazzi, sì, esatto. Della Mattel. Sì. Sai quante volte sono andati a cercare sotto Barbie, sotto Big Jim? Non c'era niente, erano tutti uguali. Esatto. Va bene, grazie. Daniela. Sì, buongiorno. Io invece compro roba quando vado in vacanza. Compri roba specifici, perché sai, poi ci ascoltano anche. Compro regalini per gli amici perché vedo delle cose, mi innamoro, dico ah, questa va benissimo per la tizia. E faccia degli esempi di cose scellerate che hai acquistato. Beh, robe scellerate. Allora, cerco soprattutto di guardare che non ci sia l'etichetta made in China. Vabbè, quello perché... importa poco, anzi, a noi fa piacere. Insomma, uno va negli Stati Uniti e poi compra una roba made in China, insomma, non è proprio bellissimo. Beh anche chi porta la statuina del Colosseo o del Davide Michelangelo li fanno in Cina e li compra di fronte al monumento stesso. Comunque, andiamo avanti, voglio sapere oggetti che lei ha acquistato, di cui si vergogna magari. Di cui mi vergogno no, però sono cose tipo abbigliamento che lì mi sembrano bellissime, coloratissime, forme stranissime, poi arrivo qua in Italia e dico vabbè, ma chi se lo mette questo? Mai più. Ma non c'è un oggetto a casa totalmente inutile che non serve a nulla? Beh, c'ho per esempio la rana, quella di legno dove passi quella specie di pestello che fa rumorino, La rana che gracchia. Beh, già andiamo. Quella però non ha sua utilità, esistono cose ancora più inutili. La manina per mettere gli anelli, quella manina che vendono sempre in tutte le bancarelle, una manina di plastica che uno ci infila gli anelli, perché la gente pensa che la sera la signora estolga le decine di anelli e li infila nella manina nera, che è anche sinistra come cosa. Di plastica no, però effettivamente la manina nera ha il suo fascino. Può avere anche altri usi impropri comunque. Perché ride? Insomma. Vabbè, grazie Daniela. Mario. Buongiorno Nicoletti, sì. Oggetto inutilissimo che tengo sulla scrivania del lavoro, un modellino di Smart allestita da carabinieri, presa in un mercatino. Cioè il paradosso, i carabinieri con la Smart. Perfetto. Però in due ci stanno. I carabinieri in due ci stanno, perfetto, ha ragione, però presa così inutilmente, vado su un mercatino a Ferrara e poi portata in costruzione. Una Smart dei carabinieri, vada avanti, so che può dirmi di meglio. E poi tutte le calamite che teniamo attaccati sui frigoriferi, assurde, che ricordano le varie... Questa mattina devo dire c'erano 5 dunque una calamita 1 euro da frigorifero e 5 calamita 3 euro che erano fantastiche, erano tutti gli ortaggi possibili e immaginabili, i sushi, tutti i pezzi di sushi possibili, crostacei vari, non so come ho fatto a resistere, ma perché ho il frigorifero ricoperto di legno e quindi non ci si attaccano, solo per quello non l'ho preso. La ringrazio. Vabbè, adesso visto che vi sentite giù vi sorprendo con un effetto speciale. Capi animali per gatti. Avete un gatto e volete trasformarlo in un leopardo? Ecco i cappucci artigianali e originalissimi, fatti con le forme di altri animali, in tre versioni. C'è il cappuccio scimmia, il cappuccio leopardo e, per finire, il bellissimo cappuccio leone. Sono tutte e tre bellissimi e originali, sono fatti in finta pelliccia e sembrano dei copricapo di peluche. Per esempio, il leone ha una folta criniera che trasformerà il vostro gatto in un piccolo leoncino in miniatura. Ovviamente, se avete un gatto marrone o arancione, otterrete un effetto migliore, ma anche i gatti con il mantello di altre tinte saranno spettacolari. Il cappuccio a testa di leone è perfetto per i gatti chiari, la scimmia per quelli scuri, mentre il leopardo con la sua pelliccia maculata si presterà per tutte le sfumature. Insomma, fatelo provare al vostro micetto e trasformatelo in un altro animale. Potrebbe regalare a Bersani la testina da leopardo da mettere ai gatti. Qua siamo ai limiti del maltrattamento. Chiaramente nessuno costringerà il gattino a mettersi il copricapo a forma di scimmia o di leopardo o di leone. Forse qualcuno sì, non lo so, non ho molta dimestichezza, ma il fatto che qualcuno li fabbrichi, esistono, lo trovo assurdo. Assurdo nel senso meravigliosamente assurdo. Un'altra cosa che mi piace molto sono... Le ciabatte che escono fuori la faccia dei Simpson o escono fuori i piedi disegnati, ecco, queste cose assurde che uno regala per fare uno scherzo. E poi esiste un'altra tipologia di oggetti osceni che vanno molto, non lo so, nelle feste di addio al nubilato, le feste di laurea, gli 8 marzo. Ho visto cosa si regalano le signore per ridacchiare tra loro e devo dire che sono oggetti che non posso descrivere alla radio. Filippo, buongiorno. Buongiorno. Dunque, il mio è un lambdametro ad assorbimento. Un cosa? Un? Si chiama così. E cosa misura il lambdametro? No, non ve lo dico, forse meglio. Ma no, no. No, io l'ho preso. No, scusi, il lambdametro cosa misura? Sì, ma guardato su internet rovina tutto dire che cos'è. Nel senso che il bello è che è un aggeggio che sembra un bazooka. Sì. Che ha una manovella sul retro, ha un pistolotto che esce che sembra un mirino. Sarà lungo 1,20 m, è tutto di ottone. E io francamente, io quando l'ho preso, io sapevo che cos'era, però non lo dico in giro. L'abdometro, semmai, no? L'ambdametro. No, è proprio un lambdametro. È proprio un lambdametro. Non esiste, esiste l'abdometro, ma l'ambdametro non lo vedo. No, c'è lambda, esiste lambda. È soltanto che il bello è che se uno proprio dentro nelle segrete cose capisce che cos'è, ma normalmente io molto spesso... HGH metro lambda, è questo? Esatto, gli dico, ecco, comunque c'è qui un lambdametro d'assorbimento, se vi serve, così è a vostra disposizione, e questi si grattano la testa e dicono, ma questo è pazzo, però ha una... Lo sa che non c'è nessuna immagine su internet del lambdametro? Ma è difficile, perché francamente io ho capito che cos'era, ma ho capito così dai principi... No, ma come lo descrive lei è qualcosa che fa venire i brividi, cioè è un tubo cavo di ottone con una manovella. È bellissimo, è un tubo cavo di ottone. E cosa ci si mette dentro il tubo? Da misurare. Ma più che un bazooka, sembra un lanciagranate di quelli che aveva anche la polizia per i candelotti lacrimogeni. E immaginiamoci il tubo che sarà lungo 30-40 centimetri, con una specie di manico dietro che sarà lungo 60, con una vite, una manovella, un contagiri. Vabbè, lei vuol fare il misterioso, Filippo. Allora, lancio questa sorta di crociata. Vi prego, aiutatemi. Tra un istante diamo le informazioni della borsa, perché è giusto, ma dopo, se qualcuno mi spiega ciò che Filippo crudelmente, sadicamente vuole spiegarmi, cosa sia il lambdametro, mi renderà più felice la giornata. Melog, la realtà condivisa. Good morning. Good morning. Sveglia che corre. Alzarsi presto la mattina è un trauma più o meno per tutti, ma spesso i più dormiglioni, senza neanche accorgersene, spengono la sveglia, rischiando il più delle volte di fare tardi. Come fare a risolvere il problema? Clocky è una sveglia che corre. Grazie alle due ruote di cui è dotata, salta giù dal vostro comodino e si muove per la stanza cambiando spesso direzione, anche se dovesse trovare ostacoli. L'unico modo per spegnerla è alzarsi per rincorrerla. E una volta alzati, non incapperete nel rischio di addormentarvi nuovamente. Clocky si può impostare in diversi modi. Si può decidere di farla scorrazzare per la camera appena suona la sveglia, oppure al secondo tentativo. Mi arrivano molte segnalazioni anche dai colleghi della radio di Milano. Mi arriva immediatamente una foto di quella che è la console di chi ci sta trasmettendo da Milano, e vedo un mini apparato da DJ con i due piatti dei dischi, vedo due dinosauri, vedo un signore con i capelli dritti, vedo una sorta di pallone sopra una specie di trofeo e via dicendo. So che le colleghe che rispondono ai telefoni avevano una collezione di piccoli puffi, c'era anche la puffetta e tutti i puffi, e un giorno passai e, ahimè, non resistetti alla tentazione, li trasformai in un'orgia, li fotografai e misi su Facebook i puffi che si accoppiavano in maniera impropria e plurima, mi scuseranno per questo. Mi viene forse incontro l'ascoltatore David, mi ha chiamato poco fa un crudele nostro ascoltatore dicendomi il suo gadget senza spiegarmi cosa fosse. Le sa cos'è, David? Ma credo che sia un dispositivo per il controllo delle emissioni di gas nelle macchine a alimentazione metano GPL. È un misuratore di metano, diciamo. È un misuratore, sì, per il controllo delle emissioni di gas. Ci voleva tanto a dirlo. Guardi, dai, sembra quasi che sia fatto apposta, ma nella nostra ricerca randomica di gadget singolari già noi avevamo pensato all'andametro, anche se chi lo vende, lo propone, lo mette sotto un altro nome. Slip elimina odori. Avete il timore che vi scappi un peto in ascensore prima dell'apertura delle porte? È tutto finito, grazie al tampone antiflatulenze arrivato dal Giappone. Questo specialissimo prodotto consiste in un filtro che va inserito nelle mutande ed è dotato di speciali carboni attivi contenuti nello stesso, che evitano i gas maleodoranti di fuoriuscire dagli slip. E con soli 30 euro potete lasciarvi andare quando volete. sono giorni che su Facebook viene reclamizzato nelle offerte pubblicitarie una sorta di lambdametro portatile, in realtà è una sorta di attrezzo grigio che uno si infila come fosse una specie di assorbente, prova molto, ridono tutti, sono divertenti e molti se lo staranno comprando. 30 euro non sono pochi, ma devo dire che il risultato probabilmente per molti è una soluzione di vita, potranno sentirsi come le altre persone e non avere il peso del loro handicap di essere dei flatulenti compulsivi. Arianna. Buongiorno. Sì. Ho sentito parlare di calamite e non posso resistere, io ne avrò 5.000, ovviamente non sul frigorifero. È una maniaca delle calamite lei, sì. Sì, io sono una persona estremamente razionale e solo per l'utilità, eccetto che le calamite, questo è il mio piccolo punto debole. Dove le mette? Le mette tutte sul frigo? Ma si immagina che frigorifero dovrei avere? Ho una camera nella quale ci sono le pareti metalliche ormai. Cioè ha rivestito una camera di lastre di acciaio sulle quali attacca. Esattamente. Camera blindata. No, si può entrare benissimo, non è questo lo scopo. Lei parlava del mercatino con queste calamite di frutta, sì, eccetera, mi piacerebbe tanto, io sono a Torino, non sono a Roma, mi piacerebbe tanto sapere se c'erano anche il mangustin o il fiore di banano che ho io davanti agli occhi, piuttosto che... Ma il fiore di banano non l'ho mai visto in vita mia, però se me lo descrive posso dire, c'era tutto, diciamo tutti gli ortaggi, la frutta, vabbè, tutto, questi, ma è un centinaio. Sono molto particolari, ci sono il durian. La noce di cocco. Cos'è il durian? Sono frutti, tutti frutti tropicali, perché li ho comprati tutti in Thailandia. Ma in realtà, la sua camera metallica blindata è divisa per sezioni, cioè c'è la sezione durian, fiori di banana che fanno... È divisa per sezioni perché quando qualche anno fa, 8 anni fa, ho cambiato casa, le ho un po' ordinate, però adesso sono di nuovo disordinate. Ma non c'è un campo magnetico pericoloso? Guardi, non lo so, probabilmente. Con tutte quelle calamite. Il cellulare da cui sto parlando è anche peggio, ma quelle più belle sono quelle sonore. Ok? Ah, ho una serie di calamite sonore molto particolari. Ma ce l'ha lì accanto a lei in quel momento? In questo momento sì, le sto guardando. Me ne fa sentire qualcuna? No, perché non ho mai sentito dire la calamita sonora. Va bene, le faccio sentire il cesto. Il cesto? Il cesto. Ah, questo. Lo sente? Lo sì, sciacquone sì. Dell'acqua? Poi le faccio sentire. Ah, il cesto, ho capito il cesto. Ah, la calamita no, gabinetto. Ah, sì, ho capito. Sì. Se vuole le faccio sentire la maga che dice è nelle carte, non è nelle carte. Faccia sentire. Quando suoni si dice è nelle carte o non è nelle carte. Poi altre cose? Altri rumori? Ah, vuole saperle tutte? Sì. Ah, io gliele faccio sentire. Una bilancia che dice Ma lei metta caso di notte improvvisamente tutte le calamite cominciano a parlare, non ha paura? Sì, ma ci vuole qualcuno che suona, che le schiaccia, altrimenti non suonano. Ma per una sorta di maleficio, non lo so, nella stanza magnetica può succedere di tutto. La stanza magnetica. Ma lei vive sola con queste calamite? No, io non vivo sola, vivo con moglie e figli, anzi una delle più belle che mi piace ricordare è una che mio figlio, che sta facendo un anno negli Stati Uniti, mi ha spedito, che è la Constitution Bell, che non avevo mai sentito, che è la campana della... Ce l'ha lì la campana? Sì, ma non suona, quella non suona, non sono solo... tutte sonore. Vabbè. Poi ci sono quelle dei santini, per cui ci sono, che ne so, dalla Madonna di Loreto. Ma faccia sentire il santino, un santino? No, non suonano, solo alcune suonano. Ma c'è un santo che suona, almeno ci porta bene, no? No, il santo che suona non ce l'ho, però Houdini che è nel baule, chiuso nel baule, che vuole uscire. Houdini che bussa. Vabbè, Arianna, ci ha intrattenuto molti. Saluti a tutta la famiglia, la moglie compresa. Franco, buongiorno. Buongiorno. Sì. Io compro due cose, una non è un gadget, sono le torce elettriche. Beh, ci inciampo, la compro, ma il gadget che compro sempre in ogni dove, il più inutile, è il pendolo di Maxwell. Lo yo-yo sarebbe? Lo yo-yo, bravissimo. Ah. Io compro yo-yo, quando vado in giro compro yo-yo. Quanti ne possiede? Pochi, troppo pochi per adesso. Pochi quanti sono per lei? Poche decine? Sì, qualche decina. Vabbè... Infatti, però, non voglio seguire questa sirena nel sottofondo, non sono io che l'ho messa. No, sono bloccato sull'autostrada nel traffico. E intanto passa il tempo giocando con lo yo-yo. Non ce l'ho con me, no. Se no ci giocava in macchina. Gioco durante le vacanze. Ma anche quando guida usa lo yo-yo? No, non ci riesco, ancora non ho imparato. Beh, se si allena magari. Però io non so quanti punti patente le costa lo yo-yo durante la guida, non so se è contemplato. Però vabbè, Franco, ho capito, un altro matto. Mario. Ciao Gianluca. Eccomi. Ci conosciamo a Matrix, non so se ti ricordi. Io dimentico tutto del passato, comunque andiamo avanti. Fai bene. Senti, c'è una cosa bellissima, più cosa per la verità, c'è un guru della televisione, di cui non faccio il nome per riservatezza, che ne fa una collezione di oggetti assolutamente inutili e improbabili, all'ufficio pieno. Uno di questi è un origami fatto da D'Alema mentre aspettava di parlare. E allora è Vespa che l'ha fatto a Porta a Porta. No, l'ha fatto proprio durante, davanti, io l'ho mandato lì per servizio, e lui mentre aspettava di parlare costruiva una cosa con le mani in carta. Sì, fa gli origami. Alla fine, esatto, fa gli origami, ma questo origami era una poltrona, era una piccola poltrona di carta. Lo so, è l'ossessione di ogni politico la poltrona, come può la lucina e la riproduce attraverso un simulacro. L'ho portata in redazione, adesso sta sotto una teca, però... Una delle cose più belle che abbia occasione di regalare è il Cristo in croce in 3D, con quel 3D un po' anni 70, che guardando da una parte o dall'altra, muovendo leggermente, apre e chiude gli occhi in croce. Ah beh, io ho comprato da un indiano, mi sembrava il paradosso fantastico, alla stazione di Milano, una Madonna addolorata che apre e chiude gli occhi, sempre con le figurine, come le figurine del formaggino mio quando eravamo piccoli, che non le muoveva e si muovevano, ecco quelle cose lì. L'ho tenuto attaccato a casa un po', era bello, misto, poi l'ho tolto perché qualcuno pensava che avesse un piglio blasfemo, ma no, trovo questa contaminazione fantastica, che un indiano vende una Madonna con gli occhi rutilanti, che aveva qualcosa anche di sinistro. Melog, la realtà condivisa. Orologio da polso antiorario. Conoscete anche voi i tipici tipi che sembrano abbiano la verità in tasca? Quelle persone che ritengono di poterti dire tutto perché loro la sanno lunga su tante, tante cose e quando cominciano a parlare non la finiscono più? Regalate orologio da polso antiorario, l'unico le cui lancette scorrono in senso antiorario, dando l'impressione che il tempo si stia davvero muovendo all'indietro. Caratteristiche prodotto, orologio da polso esteticamente normale ma che segna l'orario al contrario. I numeri sono disposti in senso antiorario, le lancette si muovono in senso antiorario. Cinturino in tela con parte interiore in pelle, resistente all'acqua fino a 3 metri di profondità. Guardate che nella scelta del gadget, secondo me, noi troviamo, cerchiamo disperatamente la soluzione a nostre angosce. L'orologio che gira antiorario trovo che sia uno strumento indispensabile per vincere l'angoscia e l'ambascia che ci dà lo scorrere veloce del tempo. Fai morire d'invidia i tuoi amici mostrando loro che tu puoi. Simpaticissimo portafoglio in ecopelle stampata che rappresenta un malloppo di banconote da 100 euro tenute insieme da un elastico. Lascia tutti a bocca aperta estraendolo dalla tasca. Le dimensioni compatte lo rendono pratico sia nella giacca che nei pantaloni. È dotato di 6 tasche per carte di credito più altre 5 oltre allo scomparto per le banconote. Questo corrisponde un po' a quegli oggetti di imbottitura che si usano per far bella figura quando uno va in spiaggia, quando uno va in palestra, il pacco sintetico. Pensavo che fosse una leggenda, ma in realtà esiste e c'è chi lo usa. Sembra di essere Nureyev, un ballerino di danza classica, che notoriamente hanno questa sorta di imbottitura, ma in realtà è tutto finto. Beh, in questo tempo l'imbottitura che più conta è quella del portafoglio, è sintetica. L'ho visto, me lo sarei per comprare, il portafoglio a forma di mazzetta di banconota, ma vi dico, c'è una versione ancora più fantastica, che è un fermaporta, che sembra un pacchetto di euro piegati, infilati per fermare la porta, in realtà è finto di plastica, ma dovrebbe dare l'illusione, la tentazione, la gente si china, dice, guarda, questo fa il fermaporta con le mazzette di soldi. Vedete, dietro ogni gadget c'è sempre un desiderio nascosto. Apri bottiglie, spada laser, Star Wars con suono. Lo scontro finale sta per cominciare. È il momento di sfoderare l'arma. Luke prende la spada laser, l'accende e dà inizio alla festa. Altro che battaglia epica. L'eroe dell'Alleanza Ribelle userà la sua fidata spada per aprire una bottiglia di birra ghiacciata che gli permetterà di riconquistare la massima forza. Caratteristiche del prodotto. Apri bottiglie con la forma del manico della spada laser di Luke Skywalker. Con reale suono dell'accensione della spada. Il suono della spada viene attivato quando l'apribottiglie tocca il metallo. I tuoi amici resteranno incredibilmente estasiati nel vederti impugnare la famosa spada laser di Luke, che non appena stapperà la bottiglia emetterà il classico suono d'accensione. Ho fatto sentire un po' dei gadget che avevamo scelto per la nostra gioia e la vostra gioia, ma diteci i vostri. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Allora, io... Spenga la radio, sennò sembra che siete dentro quattro dentro quella stanza. Scusi. Allora, niente, io faccio una collezione di frigoriferi, praticamente. Beh, è una casa molto, molto spaziosa. No, lavoravo un po' nel campo, perché lavoravo nei prodotti surgelati, andando in giro e distribuendo prodotti surgelati, mi capitava di arrivare o di fornire clienti, cinema, eccetera. Quindi delle volte gli fornivo dei frigoriferi o dei nuovi e ritiravo. Quindi ha la casa piena di frigoriferi lei? No, c'è una ghiacciaia, la vecchia ghiacciaia di legno prima che ci fosse la corrente, ho un frigorifero della Coca-Cola di quelli bellissimi, tutti completamente. Poi, siccome faccio la distribuzione con i camion, avevo ottimi rapporti con i carrozzieri, quindi li ritiravo, che erano in condizioni pietose, li rivernicia, li rimette a posto. Esatto, proprio con i colori. Ma sono funzionanti, cioè dentro c'è il cibo normalmente? Allora, sì, sono tutti funzionanti. E poi praticamente li uso un po' come arredo, però in realtà ce ne ho troppi rispetto a quelli. Può fare come facevano negli anni 60, gli anni del boom, i contadini umbri che compravano il frigorifero a rate perché dicevano che era utile, poi la sera d'estate ci mettevano le scarpe per averle fresche la mattina dopo. Valentina. Sì, buongiorno Nicoletti. Eccomi. Io ho chiamato perché praticamente avevo la mia fissazione, per fortuna adesso ho smesso, soprattutto per il portafoglio di mia mamma. Ma lei quanti anni ha, Valentina? Adesso 29, ma quando ce l'ho... Beh, interessante che 29 più ancora i suoi vizi pesano su sua madre. No, adesso no, però un tempo sì, e mi riferisco a quei gingilli da attaccare al telefonino, specificatamente con Winnie the Pooh o quei segni zodiacali, che erano su quei distributori dove si doveva inserire l'euro per fare tutta quanta la collezione. Che c'era l'illusione che non facessero venire il tumore al cervello, dicendo cose del genere. Salvavano dalle radiazioni, allora metteva Winnie the Pooh che assorbivano le radiazioni. Sì, c'è un periodo che si girava a voce che assorbivano le radiazioni del cellulare. Non solo, perché c'erano anche quelli di gomma, no? Che si poteva dire, c'era il Winnie the Pooh di plastica e si poteva togliere il vestitino di gomma e intercambiarlo anche con un qualche altro vestitino. C'erano 10 soggetti e uno metteva i soldi dentro, 1, 2 euro, quello che è, finché non veniva fuori ad esempio quello che mancava, che mancava era solo uno. E c'aveva una massa di Winnie the Pooh che non sapeva che farne, già. Ma ne avrò un sacchetto pieno, sarà mezzo chilo secondo me, tra Winnie the Pooh, segni zodiacali, personaggi della Disney, una cosa assurda. Vabbè, ognuno impiega il suo tempo nella maniera più proficua, se le dava gioia avere il Winnie the Pooh in gomma a portata di mano, ne poteva benissimo usufruire, in fondo euro non è che la mandavano in crisi. Anna. Buongiorno. Io sono fissata per le scatole, scatole di legno, scatole di cartone, scatole di latta. A volte compro cose che butto regolarmente perché la scatola è carina. Quando arriva un regalo, del regalo poco me ne importa se la scatola è carina. E quindi mi ritrovo ad avere una marea di scatole e non so più che cosa fare. È la lussura del contenitore, la posso capire benissimo. Sì, solo il contenitore. Beh, vediamo se vi diamo un ultimo contenuto dei nostri. Zapper. Lo zapper si presenta come una piccola scatola da cui escono due cavi che vanno collegati al soggetto. Generalmente si usano delle fascette che vengono poste sui polsi. È un semplice dispositivo elettronico che funziona con impulsi elettrici da 9 volt, che secondo la studiosa Huba Clark uccide batteri, virus e parassiti utilizzando campi elettromagnetici e il principio della biorisonanza. Cosa aspetti a provarlo? Non vedo l'ora, questo chiamano l'antibiotico elettronico, ma qualcuno lo prende anche come una cosa seria. Vabbè, non era niente di serio oggi, ci sentiamo lunedì.